البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. لا لا لا لا لا لا لا. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا محتل اطلع Buongiorno Palestina. Da ora in poi una sintesi delle notizie della settimana verrà letta da chi cura la rassegna stampa dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese. Sul sito dell'associazione, a cui potete accedere su internet con un qualsiasi motore di ricerca digitando Amicizia Italo-Palestinese, si possono leggere i più interessanti articoli della settimana apparsi sulla stampa internazionale e tradotti in italiano. Oggi quindi Leo Schaeffer, che cura per il mese in corso tale rassegna stampa, riferirà sulla situazione politica israeliana anche sulla base di una nota inviataci da Zoher Raffa, palestinese che da molti anni vive e lavora a Firenze e che mantiene solidi legami con la zona di Nazareth dove vivono ancora i suoi familiari. Seguirà una conversazione con Alessandra Mecozzi, che è stata responsabile esteri della FIOM e si è occupata a lungo di Palestina in anni che hanno determinato l'attuale situazione. Diamo ora la parola a Leo per le notizie della settimana, subito dopo un breve stacco musicale. Thank you. La rassegna stampa palestina del 23 marzo 2020. I titoli principali dei giornali del Medio Oriente aprono naturalmente con il coronavirus. In Cisgiordania finora sono stati diagnosticati 57 casi, la maggior parte dei quali a Betlem. Si parla di 17 guariti, ma l'autorità nazionale palestinese, ANP, ha annunciato misure di emergenza nella lotta al coronavirus in Cisgiordania domenica mattina, tra cui la quarantena forzata per 14 giorni per tutta la popolazione. Il premier ha spiegato che da questo provvedimento sono esclusi i lavoratori della sanità, nelle farmacie, nei forni e nei supermercati. Vietato anche ogni trasporto e movimento tra le varie zone della Cisgiordania, e questo sarà un grande problema. Ha anche spiegato che i palestinesi che lavorano nelle colonie israeliane non potranno lavorare in questo periodo di emergenza. Qual è la situazione a Gaza? Il titolo del giornale Haaretz è stato la settimana scorsa: per gli ingabbiati di Gaza il coronavirus è una condanna a morte. Questo del 20 di marzo. Perché? Quasi 2 milioni di esseri umani che vivono nello spazio di soli 365 chilometri quadrati, uno dei luoghi più densamente popolati del pianeta Terra, confinato in una gabbia da cui non possono fuggire. Devono vivere la propria vita entro i confini di questa zona di terra in rapido deterioramento. Sono isolati dal resto del mondo e la striscia di Gaza, come magari sapete, è bloccata da Israele dal 2007. La Jewish Voice for Peace, la voce ebraica della pace, è un'organizzazione ebraica USA che sostiene dall'altro il BDS, il boicottaggio dei prodotti israeliani, parla di soli 200 kit tampone a disposizione a Gaza, vuol dire una catastrofe, e chiede al Congresso degli Stati Uniti fa pressione su Israele per la fine del blocco di Gaza. Domenica mattina Gaza conferma i primi casi di coronavirus. A Gaza sono stati diagnosticati 2 casi di pazienti che sono tornati dal Pakistan attraverso l'Egitto. Sono confinati in una zona di quarantena istituita nella città di confine di Rafah, e questo ha detto il Ministero della Salute di Gaza. Le loro condizioni sono stabili. E che cosa succede invece in Israele? Nel paese il numero dei contagiati continua a crescere. Sabato scorso, questa è la data di riferimento, i casi confermati sono 529, con 279 ricoverati, di cui 6 casi gravi. Scrive il giornale di sinistra e liberale Haaretz il 20 marzo. La crisi israeliana del coronavirus ha messo in luce un sistema sanitario sull'orlo del collasso. Ma c'è un altro virus in Israele, un virus forse ancora più grave, la crisi costituzionale. Netanyahu, con il pretesto dell'emergenza sanitaria, ha chiuso i tribunali e rinviato alla fine di maggio il processo, fatto rinviare, il processo che lo vedeva imputato per gravi reati di corruzione. Inoltre fa chiudere il Parlamento e la Knesset per coronavirus. Così Gantz, il suo rivale del partito blu-bianco, alla Corte Suprema. Così congela democrazia. E scrivono i giornali. La pandemia del coronavirus e soprattutto l'uso che ne sta facendo Netanyahu stanno infiammando la politica in Israele. Il presidente della Knesset, Edelstein, un membro del Likud di Netanyahu, ha deciso di chiudere la Knesset con la scusa di dover combattere il coronavirus. Il presidente Rivlin ha chiamato direttamente il presidente Edelstein per implorarlo di riaprire il Parlamento. Nel frattempo una decisione dell'Alta Corte di Giustizia, ma i ministri di Netanyahu si rifiutano questo ordine dell'Alta Corte di Giustizia che consente di sostituire il presidente della Knesset. Il leader della lista Joint List, la lista unica che unisce i partiti arabo-israeliani, terza forza del Parlamento con 15 seggi, dice Netanyahu indegno, usa l'emergenza coronavirus per i suoi giochi politici. Ultimo, Netanyahu ha lanciato la sua offensiva finale, virgolette, per realizzare un governo Likud blu-bianco, offrire al partito di Benny Gantz i ministeri degli esteri e della difesa e una staffetta alla guida dell'esecutivo. I primi 18 mesi al leader dell'Likud e i successivi all'ex capo di Stato Maggiore. La settimana scorsa è apparso un articolo molto interessante, forse più importante, sul giornale Haaretz di Gideon Levi, un articolo di fondo. Blocco coronavirus. Israeliani, avrete un piccolo assaggio della vita dei palestinesi, ma i palestinesi possono solo sognare un blocco come quello israeliano. Perché? Israele sta assaggiando un po' dell'inferno che sta diffondendo da decenni ai suoi sudditi. Con una velocità allarmante, gli israeliani sono entrati in una realtà nota a tutti i palestinesi. Certo, le differenze sono molte. Ciò che per noi costituisce la fine del mondo sarebbe per loro, ossia per i palestinesi, un allentamento della chiusura. In Israele le forze di sicurezza si comporteranno come infermiere premurose rispetto al loro comportamento criminale nei territori e sarà comunque insopportabile per noi. Nei territori occupati il servizio segreto Shin Bet sa sempre tutto, ovunque, senza restrizioni legali. Le critiche alle violazioni della privacy in Israele possono solo divertire i palestinesi. Anche nella peggiore delle distopie, i cecchini non sparano alle ginocchia dei manifestanti. Le nostre case non saranno bombardate o i nostri campi infestati. È solo un assedio temporaneo, con intercettazioni di Shin Bet e pattuglie della polizia di frontiera. Rimarrebbe un sogno per i palestinesi se questo fosse la realtà, un sogno di una vita migliore. Parliamo anche di antisionismo e antisemitismo. A Radio Bomba Claudio ed altri ne hanno già parlato di questo uso criminale di antisemitismo nei confronti di persone, anche ebrei, che criticano Israele. Questa campagna lanciata da Israele usa la definizione cosiddetta nuova, ma inesatta, del IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, che definisce la critica ad Israele come espressione di antisemitismo. Viene usato in tutto il mondo contro chi critica la politica di Israele. Secondo loro, Einstein, Hannah Arendt, Noam Chomsky, Noam Klein, per esempio, sarebbero antisemiti, perché sono antisionisti. Purtroppo la conferenza dei rettori universitari tedeschi ha sposato questa definizione dell'IHRA, che minaccia così la libertà di opinione, insegnamento e ricerca nelle università tedesche. Tre famosi professori, tra cui uno ebreo, hanno lanciato una petizione via la definizione antisemitismo IHRA dalle università, che naturalmente noi dell'Associazione dell'Amicizia Italo-Palestinese abbiamo firmato. Cosa è stato ancora in questi giorni? Per esempio il 21 marzo. Il 21 marzo, allora sabato scorso, è stata la giornata internazionale dell'ONU contro la discriminazione razziale. La data del 21 marzo è stata scelta per ricordare quando, appunto, il 21 marzo del 1960 in Sudafrica, in pieno apartheid, la polizia ha aperto il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore, uccidendone 69. Il 21 marzo è stata anche la fine della 16ª settimana annuale Israeli Apartheid Week, IAW. Quest'anno con il tema Uniti contro il razzismo. IAW, Israeli Apartheid Week, sostiene i diritti dei palestinesi e serve anche a far crescere il movimento per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, il BDS, di cui abbiamo già parlato. La campagna serve per raggiungere tali diritti nel contesto delle lotte globali contro l'oppressione razziale e soprattutto in Palestina. Una sostenitrice eccezionale quest'anno è Angela Davis, e credo nota a voi e non soltanto agli sessantottini. Cosa dice e scrive Angela Davis? Con i nostri oppressori uniti è sempre più chiaro che tutte le nostre lotte per la libertà sono interconnesse e che nessuno sarà libero fino a quando non saremo liberi tutti. Scrive e continua. Per coloro che lottano ovunque contro il razzismo e per la libertà, il popolo palestinese continua a disperarci perché ha resistito e rimasto perseverante per così tanto tempo, rifiutando di arrendersi e accettare sottomissione permanente e ingiustizia. E alla fine, una notizia di cui non parla nessuno, sono le cosiddette notizie che non fanno notizia. 23 marzo. Un palestinese è stato ucciso la notte scorsa dall'esercito israeliano nei pressi dell'incrocio di Milin, vicino alla linea verde non distante da Ramallah. L'uomo aveva 32 anni. Il portavoce dell'esercito israeliano ha spiegato che i soldati hanno individuato e sparato ad alcune persone che stavano lanciando sassi contro l'auto israeliano di passaggio. Un altro terrorista ucciso, probabilmente ha scritto la stampa militare israeliana. Fine della rassegna stampa. Grazie. Passiamo ora all'intervista di Claudio ad Alessandra Micozzi, subito dopo un breve intervallo musicale. Thank you. L'argomento di cui vogliamo parlare oggi è la trasformazione della società, delle società in Palestina, cioè come si sono andate trasformando le due società, sia quella israeliana che quella palestinese. Ne parliamo con Alessandra Mecozzi, che è stata funzionaria della FIOM nazionale e poi anche successivamente responsabile dell'ufficio internazionale della FIOM. E Alessandra si è occupata di Palestina per un lungo arco di anni e se ne sta occupando tuttora. Quello di cui vorremmo parlare oggi è proprio come Alessandra vede questo lungo arco di anni dal punto di vista delle trasformazioni che sono andate intervenendo nelle due società, cioè sia nella società israeliana che in quella palestinese. Innanzitutto chiariamo, allora, di quale arco si tratta, Alessandra? Sì, secondo, buongiorno a tutti intanto, secondo, se mi devo basare sulla mia esperienza diretta, l'arco di tempo va, diciamo, dal 1987, ovvero dallo scoppio della prima intifada, cioè rivolta popolare palestinese contro l'occupazione, fino ai giorni nostri. Per quanto riguarda sempre la mia esperienza diretta, diciamo che poi l'inizio, appunto, insieme a un altro gruppo di donne di, del Casa delle Donne in Torino, dell'Associazione per la Pace e del Centro Ricerche Donne di Bologna, la nostra esperienza è cominciata proprio nell'88 direi meglio, con un campo di pace con le donne palestinesi e israeliane a Gerusalemme, poi con nostre visite e incontri in varie altre città dei territori occupati palestinesi. Ecco, qual era allora l'agibilità di Gerusalemme? Cioè, allora poteste fare queste riunioni, queste iniziative liberamente? Avevate degli ostacoli, avevate delle difficoltà? Perché oggi mi pare che la situazione sia molto peggiorata per quanto riguarda l'agibilità della città. Sì, assolutamente. Oggi è molto peggiorata per quanto riguarda la stessa entrata, diciamo, dall'aeroporto di Tel Aviv in Israele e per poi andare nella Palestina occupata. È completamente diversa. Allora noi siamo riusciti ad andare senza problemi, anche a girare per le città e per i territori occupati, quindi la situazione è radicalmente cambiata. Ecco, le vostre, dunque, allora vi vedeste insieme a donne israeliane e palestinesi, poi la cosa è andata incrementandosi come coinvolgimenti o è andata scemando? Cioè che andamento ha avuto questi vostri rapporti? Allora sì, i rapporti allora nel campo, cosiddetto campo di pace, noi abbiamo fatto incontri prima con donne palestinesi e poi a parte con donne israeliane, poi abbiamo avuto un momento comune con tutte palestinesi e israeliane, ma questo anche in base al fatto che esisteva già tra donne palestinesi e donne israeliane qualche rapporto, una qualche comunicazione, quindi non eravamo noi che portavamo questo, ma erano loro che già avevano questo rapporto, tenendo conto ad esempio che dal lato israeliano era nato un movimento piuttosto importante, quello delle Women in Black, le donne in nero, che poi fu ispirazione per l'Europa e per il mondo, e in Italia si formò un grosso movimento di donne in nero, ovvero contro l'occupazione, in generale per la pace, cioè si coniugò il femminismo, chiamiamolo, dei gruppi italiani che erano andati lì con il pacifismo, e su questo trovavamo un terreno fertile con le donne palestinesi e israeliane. Tutto ecco. Quello che è poi successo a partire dagli accordi di Oslo e poi ancora più a partire dalla seconda intifada, cioè 2000, ha provocato reazioni, non reazioni positive, ma reazioni negative, sia nell'ambito della società civile israeliana, sia nell'ambito di quella palestinese. Noi abbiamo mantenuto i rapporti, io tuttora con qualcuna di queste donne, sia palestinesi che israeliane, tuttora rapporti ce ne sono, però bisogna dire che si è rotto il legame tra le donne palestinesi e le donne israeliane, e direi anche tra società civile palestinese e società civile israeliana, e questo è dovuto a tutto quello che è poi successo. Dunque, allora, gli accordi di Oslo sono del 1995, no? E... no, sono del 1993. Sì, del 93 e poi nel 95 la seconda, diciamo, zone A, B e C stabilite, no? 93-95, insomma, in quei due anni. Nel 2000 c'è stata poi la seconda intifada, ma anche una certa mobilitazione all'interno di Israele, nella società israeliana per la pace, o mi sbaglio? Confermalo. Limitata, molto limitata, cioè direi c'è stata, ma molto limitata, perché direi che quel grande movimento per la pace israeliano, che era poi Peace Now, che era un grosso, sì, esatto, movimento, ecco, quello si è venuto indebolendo, questo anche perché dentro la società israeliana è venuto un primo elemento traumatico, che è stata l'uccisione di Rabin nel 1995. Rabin era capo del governo ed era quello che insieme ad Arafat aveva firmato gli accordi di Oslo ed era considerato il riferimento, diciamo così, dal punto di vista di tutti gli israeliani, non israeliani, per il processo, per condurre e portare avanti l'applicazione del processo di pace avviato con gli accordi di Oslo. Quindi questo già aveva determinato, perché Rabin fu ucciso da un colono ebreo, da un fanatico, diciamo, integralista ebreo. Sì. Questo aveva già determinato una rottura. E tu mi chiedevi della seconda intifada. Teniamo conto che appunto la seconda intifada è cominciata nel 2000. Naturalmente le premesse si sono costruite prima, ma diciamo la scintilla che ha fatto deflagrare la seconda intifada è stata la provocazione che Sharon, allora capo dell'opposizione, capo dell'Likud e capo dell'opposizione, perché il governo allora era quello di Barak ed era un governo laburista. Però sì, questa provocazione di Sharon, che andò a fare una passeggiata con 1000 militari sulla spianata delle moschee, fu la goccia, diciamo, che fece traboccare il vaso, e di lì scoppiò questa seconda intifada con caratteristiche diverse dalla prima intifada. Ecco, ti interrompo, scusa Alessandra, vorrei tornare un attimo su crescita e decrescita di quel movimento prevalentemente di donne, ma non solamente, insomma, nell'ambito della società israeliana di cui parlavi prima, cioè questa spinta si è andata esaurendo, affievolendo con gli accordi di Oslo oppure già prima? Perché poi ti faccio la domanda completa. Allora, quello che ti voglio chiedere è: ci sono una serie di iniziative attualmente in Israele che sono Breaking the Silence, che sono ex soldati, no, che in qualche maniera si confessano, dichiarano i crimini che hanno fatto, ci sono diverse associazioni all'interno di Israele che sono decisamente contrarie all'andazzo attuale, alla politica attuale di Israele. Queste sono attualmente molto emarginate, però hanno una certa loro solidità, cioè hanno una loro convinzione e insistenza. Alcuni di queste, tra l'altro, li stiamo invitando noi, di questi ragazzi che fanno i refusnik, no? Che rifiutano il servizio militare, alcuni verranno anche qui a Firenze tra poco, insomma, se il coronavirus lo permetterà, naturalmente. Ma ecco, c'è attualmente, mi pare, nell'ambito della società israeliana una profonda radicalizzazione tra quelli, ed è solo una larghissima maggioranza, che insistono nella attuale politica di Israele, ne sono convinti della impunità di Israele e di poter continuare così come la politica delle conquiste, dell'impossessamento della terra, eccetera. E poi c'è una piccola minoranza, combattiva però, ma anche molto isolata. Ecco, almeno io ho questa impressione. Però nel passato mi pare che le cose siano andate diversamente, cioè negli anni 2000 e poco avanti ci sono stati dei movimenti, credo anche dei movimenti di massa in Israele per la pace. Che cosa mi dici a questo proposito? Allora, il movimento di massa veramente per la pace israeliano, come dicevo, che faceva capo, ma non era solo, ma faceva capo a Peace Now, in realtà è precedente ed è corrisponde al periodo, chiamiamolo, della speranza, quindi prima intifada, accordi di Oslo, speranza appunto di arrivare a una conclusione di pace con i due stati coesistenti e conviventi come Israele e Palestina e così via. Come dicevo, questo è venuto molto affievolendosi e questo è successo anche perché la seconda intifada è stata un'intifada molto diversa dalla prima, che era sostanzialmente una rivolta popolare pacifica, sì. Anche se poi i palestinesi hanno avuto ben 2000 morti, però era la cosiddetta rivolta delle pietre. La seconda intifada ha visto anche, oltre alle manifestazioni, alla reazione popolare, però si è molto ristretta e militarizzata, soprattutto questo mentre la prima intifada non era un'intifada militare. La seconda intifada si è militarizzata, ci sono stati anche una serie di attentati terroristici in Israele con dei morti, quindi questo ha fatto sì che nella società israeliana crescesse la chiusura e la paura, questo è abbastanza ovvio. Poi questo mi pare un punto molto importante, cioè il carattere della seconda intifada è stato ha creato maggiore separazione e meno coinvolgimento nella società israeliana. Ecco, questo è importante, mi pare. Sì, anche perché la seconda intifada si svolta in una situazione in cui l'esercito israeliano non era più, come durante la prima, occupante dentro le città, no? Tanto che un peso importantissimo lo avevano proprio le donne, le madri, queste coraggiosissime donne palestinesi che prendevano sulle porte di casa i soldati per il bavero. Ma questo era una caratteristica che non c'era più nella seconda intifada, in quanto l'esercito era fuori delle città, era ai checkpoint, eccetera. E quindi questo ha fatto sì che non ci fosse più appunto quella spinta, diciamo, popolare di massa radicata in tutte le città, i villaggi, eccetera. Teniamo conto che poi nel 2002, due anni dopo appunto la passeggiata provocatoria di Sharon, nel 2002 Israele ha fatto una rioccupazione dei territori molto violenta, quindi non c'erano più la separazione dei territori, delle zone ABC, Israele ha rioccupato i territori e con alcune migliaia di vittime. E questo precisami un attimo, questo in che anni è avvenuto questa rioccupazione? La rioccupazione è avvenuta nel 2002 e tra il 2000 e il 2002, appunto quegli anni, e mi riferisco a una cosa che avevi chiesto all'inizio, c'è stata anche una mobilitazione molto forte di solidarietà anche dai nostri paesi. Sull'appello ad esempio alla protezione civile dei palestinesi che aveva lanciato un dirigente molto noto, Mustafa Barghouti, aveva lanciato questo appello a una presenza molto grande, massiccia, di attivisti di società civile europea, e noi come italiani fummo effettivamente lì per in grande quantità. Adesso riprendiamo questo. Scusa, volevo precisare un attimo le date. Allora, nel 2002 l'esercito israeliano rioccupa e siamo nel 2002 in piena seconda intifada. La seconda intifada poi finisce nel 2005. Stesso anno in cui viene liberata dalla componente ebraica sia Gerico che Gaza, e comincia a questo punto la tragedia di Gaza. Ecco, torniamo un attimo a quello che mi stavi dicendo sui rapporti invece degli italiani lì in massa. Ecco, riprendiamo da lì. Sì, in Italia si era costituito, diciamo nel 2001 circa, una rete molto forte che si chiamava Action for Peace e che era costituita da associazioni, anche da comuni, cioè da un movimento di solidarietà effettivamente molto molto grande, con moltissimi giovani che appunto si recarono, mi ricordo, anche a gruppi molto consistenti di alcune centinaia in Palestina. Anche noi, io allora ero appunto nella FIOM, anche noi come FIOM organizzammo appunto delle missioni civili, cioè gruppi di delegati, di sindacalisti che si recavano lì per fare i confronti, incontri, e ancora a quel tempo questi confronti e incontri che noi facevamo con i palestinesi li facevamo anche con alcune associazioni israeliane, del tipo di quelle che tu citavi, associazioni pacifiste ovviamente per i diritti umani, ecco questo, sì. E questo è stato un momento di grande partecipazione, fino a che però ci sono stati, Israele ha cominciato a respingere, io stessa stavo in un gruppo che venne respinto all'aeroporto di Tel Aviv, altri vennero respinti, altri gruppi vennero ugualmente respinti, e da quel momento, con questi respingimenti anche massicci, da quel momento nacque anche un progressivo restringimento di presenze in Palestina e Israele da parte dell'attivismo. Ho capito. E attualmente le cose come le vedi, come sono messe? Cioè dal punto di vista, perché questi respingimenti Israele ha cominciato a farli in modo anche veramente massiccio e veramente dal punto di vista politico anche grave, cioè è stata respinta la rabbina Wise, che sono stati respinti deputati democratici americani. Cioè cose che hanno fatto un po' scalpore anche nell'opinione pubblica israeliana. Ma quindi questa politica dei respingimenti è continuata, anzi si sta accentuando, e attualmente la presenza nostra, la presenza degli internazionali è molto ostacolata? Sì, è molto ostacolata, tenendo conto del fatto che nel 2017 è stata passata una norma da parte di Israele che vieta l'ingresso a tutti gli internazionali che in qualche modo siano collegati alla campagna per il boicottaggio, il disinvestimento, le sanzioni, cosiddetto BDS, e quindi c'è proprio lì c'è un divieto. Io conosco diversi, ovviamente amici e amiche, che sono stati respinti, che hanno provato ma che sono ora stati respinti, talvolta con questa motivazione, ma più spesso con una motivazione assolutamente impropria, che è quella dell'immigrazione illegale. Ecco, motivazione formale intendo dire. Però questo avviene, diciamo che oggi ci sono le maglie, diciamo, si sono strette molto di più, e tra le ele si è, come dire, dal punto di vista, soprattutto poi il governo Netanyahu ha passato tutte queste, facendo leva anche appunto su una qualche ansia della popolazione. E bisogna dire anche, qualcuno degli israeliani diciamo dice anche questo, anche su una base di razzismo che si è sviluppato dentro Israele. Non è l'unico paese dove si è sviluppato il razzismo, ma lì si è sviluppato un razzismo che è di tipo non anche nei confronti dell'immigrazione di altri paesi, anche nei confronti dell'immigrazione asiatica o africana, per dire, cioè una società che si è rinchiusa, e istituzionalmente il fatto delle politiche di Netanyahu, sempre più che chiudono sempre di più e che trovano evidentemente consenso, se pensiamo alle ultime elezioni di pochi giorni fa, trovano evidentemente un consenso in una popolazione anche giovane che si è spostata sempre più a destra. Sì, certo. Della cultura. Bene, con questo ti ringrazio molto e conto ancora su di te per una prossima puntata. Arrivederci. Va bene, grazie. Arrivederci. Oggi proseguiamo la trasmissione anche oltre la consueta mezz'ora, in quanto ci continuano a giungere messaggi da parte di persone che leggono la rassegna stampa o ci seguono su Radio Wombat e ci esprimono la loro preoccupazione per il coronavirus in Palestina e soprattutto a Gaza. Su questo ha già dato qualche informazione durante la rassegna stampa nella prima parte Leo, ma Giampaolo, che tra poco interverrà, vi darà più informazioni più recenti subito dopo un piccolo stacco musicale. Abbiamo uno stretto rapporto con la popolazione palestinese. I nostri amici e amiche in Palestina ci stanno inviando molti messaggi. Sono preoccupati per la situazione del coronavirus in Italia e in particolare per noi. Il 15 marzo Luisa Morgantini, presidente nazionale di Assopace Palestina, ha ricevuto questo commovente messaggio da parte di Ali Awad, membro di un'organizzazione giovanile del villaggio di Attuani. Voi, che avete sconfitto il fascismo e costruito una bellissima nazione, fondata sui pilastri dell'amore e della pace, siamo certi che saprete sconfiggere questo virus e continuerete ad ispirare tutto il mondo con la vostra gentilezza ed il vostro spirito dolce. Siamo molto commossi, pensando che i palestinesi devono subire ancora maggiori restrizioni rispetto alla situazione precedente. Gli israeliani, infatti, continuano a fare arresti e i coloni non si fermano negli attacchi alla popolazione palestinese. Per ora la situazione è contenuta, ma tutti si stanno preoccupando perché il contagio sta crescendo. Le notizie dirette che abbiamo dalla Palestina risalgono a 2 giorni fa, il 23 marzo. Vediamo la situazione in varie località. A Betlemme. Oggi è il 19° giorno in cui Betlemme vive sotto severe misure di sicurezza, in termini di movimento dei cittadini e delle chiusure. Ci sono chiusure di negozi, moschee e chiese. Il 22 marzo il governatore di Betlemme ha ampliato le procedure per garantire la sicurezza dei cittadini. Sono state erette 20 barriere di sicurezza agli ingressi e all'uscita del governatorato e tra le principali città di Betlemme, Beit Yala e Beit Saur. A partire dal 23 marzo sono state erette ulteriori barriere di sicurezza nelle campagne per limitare il movimento dei cittadini, tranne per casi di emergenza, dato che la maggior parte dei villaggi del governatorato sono circondati da insediamenti israeliani. Il Ministero della Salute israeliano ha precedentemente dichiarato l'esistenza di un certo numero di infezioni da coronavirus in quegli insediamenti dei coloni israeliani. Da Betlemme ci hanno inviato foto e filmati di palestinesi che sventolano bandiere italiane e palestinesi di fronte alla Chiesa della Natività. Vediamo la situazione a Tulkarm. Il 23 marzo il governatorato di Tulkarm vive in un'atmosfera molto calma, in conseguenza delle procedure adottate dal governo che ha eretto molte barriere di cemento sulle strade che collegano le città e istituendo posti di blocco agli ingressi di Anabta, al fine di impedire ai cittadini di spostarsi, tranne nei casi di emergenza. Il governatorato, sempre a Tulkarm, dovrebbe annunciare i risultati dei test di laboratorio condotti per la persona infetta del quartiere di Irta e per un certo numero di cittadini in quarantena. Inoltre c'è il timore per gli spostamenti dei lavoratori che clandestinamente si recano negli insediamenti attraverso le aperture del muro dell'apartheid e di quelli che all'interno della linea verde tornano a casa la sera. Vi sono anche richieste di non fare andare i lavoratori negli insediamenti per mantenere la sicurezza dei coloni. La situazione di Jenin. I residenti del governatorato sono impegnati per attuare le decisioni prese dal governo di non muoversi tra le varie aree e impegnarsi a rispettare il coprifuoco. Sono state erette diverse barriere di sicurezza per impedire alle persone di spostarsi fra le aree, in modo da mantenere la sicurezza del territorio. La situazione di Gaza. 19 cittadini sono risultati negativi per il coronavirus il 22 marzo e stanno ancora aspettando i risultati di altri 10 test di laboratorio condotti alle persone che hanno avuto contatti con le persone infette arrivate a Gaza dal Pakistan attraverso l'Egitto. Ieri 37 cittadini sono arrivati a Gaza e sono stati messi in quarantena. Le persone si sono impegnate più di prima in tutte le aree della striscia di Gaza per la permanenza a casa e per la riduzione dei movimenti. Questo indica l'impegno delle persone nelle misure precauzionali volte a prevenire lo scoppio del coronavirus. Un'organizzazione di solidarietà con la Palestina inglese ha lanciato un appello al Ministero degli Esteri inglese perché intraprenda tutte le azioni diplomatiche per porre fine immediatamente all'assedio della Striscia di Gaza, dove il già fragile sistema sanitario è stato ulteriormente compromesso dai continui bombardamenti che sono stati operati dall'esercito israeliano. Consentire l'arrivo di attrezzature sanitarie. Negli ospedali di Gaza ci sono soltanto 2.800 posti letto con 60 ventilatori che dovrebbero servire per circa 2 milioni di abitanti. All'interno della linea verde ci sono circa 1.070 infezioni da coronavirus e ogni giorno vengono annunciate circa 200 nuove infezioni. Gli arabi all'interno della linea verde sono molto preoccupati, soprattutto dopo aver segnalato la prima infezione di coronavirus a Nazareth per un autista di autobus di 50 anni che aveva trasportato un gruppo turistico 2 settimane fa, e si è scoperto che una donna di questo gruppo turistico era infetta. E con questa ultima notizia vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle ore 18 anziché alle 19. Inshallah. صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان.